Parliamo di fusione nucleare, un'illusione che ci distrae dai veri problemi, per usare le parole di Margherita Venturi, ordinaria di chimica a Bologna, che noi condividiamo pienamente. La maggior parte degli scienziati è d'accordo sulla necessità di lasciarci alle spalle carbone, petrolio e gas e passare a fonti di energia pulita e rinnovabile. Eppure si torna ciclicamente a parlare di nucleare, come nella nuova legge quadro appena approvata dal governo per definire le nuove norme per produrre energia da, virgolette, fonte nucleare sostenibile, definizione alquanto bizzarra troviamo. Come di consueto, non si parla solo di potenziare il nucleare da fissione, ma si presenta anche quella che somiglia molto a una favola, la fusione nucleare, che ci darebbe energia pulita, sicura e infinita. Ma è davvero così? Spoiler, no, non è così. E ora vi spieghiamo perché. Partiamo dal principio. Sappiamo che l'energia può essere prodotta in due modi nel campo nucleare: spezzando atomi pesanti, fissione, o fondendo insieme atomi leggeri, fusione. Lo stesso meccanismo che alimenta il Sole. La fusione nucleare viene spesso raccontata con una frase a effetto: mettere il Sole in bottiglia. Molto poetico e affascinante, ma nasconde quanto sia complicata questa impresa. Guardiamo cosa succede davvero nel cuore del Sole, a 150 milioni di chilometri da noi. Là dentro c'è un plasma formato da protoni che in condizioni di temperatura e pressione estreme, parliamo di 16 milioni di gradi e 500 miliardi di atmosfere, si fondono formando elio. In questo processo si libera una quantità immensa di energia, seguendo la famosa formula di Einstein E uguale mc quadro. Sulla Terra condizioni simili non possiamo ricrearle, non c'è modo. Quindi, nei laboratori, si cerca una via leggermente diversa. Invece di fondere solo protoni, si prova con due isotopi dell'idrogeno, il deuterio e il trizio. Il deuterio e il trizio sono gli isotopi dell'idrogeno che hanno nel nucleo sempre un protone solo, ma oltre ad esso anche uno o due neutroni, rispettivamente. Inoltre, poiché le condizioni in laboratorio sono assai diverse da quelle che si verificano sul Sole, per far sì che accada la fusione tra due di questi isotopi, si deve portare il plasma ad una temperatura estremamente più alta rispetto a quella che si ha all'interno del Sole. Ad ogni modo, i due nuclei da fondere, avendo entrambi carica positiva, normalmente si respingono. Per farli avvicinare e fondere, serve vincere la barriera repulsiva coulombiana, sperando che intervenga la forza nucleare forte, l'unica capace di vincere la repulsione elettrica. Se ci si riesce, si forma elio, si libera un neutrone e si sprigiona moltissima energia. Fin qui sembra semplice, ma non lo è affatto. Per far funzionare questa reazione serve mantenere il plasma, appunto, a temperature elevatissime e confinarlo a lungo. Ci sono due modi per provarci. Il primo è il confinamento magnetico. Si crea un campo magnetico potentissimo che obbliga i nuclei in sospensione lungo le linee del campo magnetico, di forma toroidale, quindi fatti come una ciambella, a seguire traiettorie circolari, acquistando energia fino a fondersi. Peccato che questo richiede magneti superconduttori da raffreddare a meno 268 gradi centigradi, con tutte le difficoltà tecniche che ciò comporta. Il secondo metodo è il confinamento inerziale. Si usa un potentissimo impulso laser per comprimere una microscopica sferetta di deuterio e trizio, facendola esplodere in una fusione improvvisa. Il primo approccio è al centro del progetto ITER in Francia, dove collaborano Unione Europea, Stati Uniti, Cina, India e anche l'Italia. In 20 anni sono stati spesi oltre 20 miliardi di euro, senza riuscire a produrre più energia di quella consumata per far funzionare l'impianto. Ogni piccolo progresso si scontra con nuovi problemi e la strada è ancora lunga e incerta. Il secondo approccio è quello sperimentato al Lawrence Livermore National Laboratory negli Stati Uniti. Il 13 dicembre 2022 è arrivata la notizia. Per la prima volta la fusione ha prodotto un po' più energia di quella immessa nella microsferetta di combustibile. Un successo? Solo in apparenza, perché i laser hanno consumato 400 megajoule, cioè 100 volte di più di quanto prodotto, senza contare tutta l'energia necessaria per far funzionare il laboratorio. E poi c'è un altro problema. Un esperimento è un conto, una centrale elettrica un altro. Qui serve un flusso continuo e al momento siamo lontanissimi da questo risultato. C'è chi sospetta che questi esperimenti vengano venduti come trionfi più per assicurarsi finanziamenti futuri che per reali progressi. E la competizione tra chi usa il confinamento magnetico e chi preferisce quello inerziale spinge tutti a raccontare i propri risultati come straordinari. C'è poi un'ombra inquietante dietro alla NIF, la National Ignition Facility, l'installazione usata nella ricerca sulla fusione. Sembra che il suo obiettivo principale non sia produrre energia pulita, ma studiare la fusione a scopi militari. E non è finita. Anche se un giorno la fusione funzionasse, servirebbero comunque deuterio e trizio. Il primo è abbastanza disponibile, ma il secondo è raro e radioattivo, con un tempo di decadenza di soli 12 anni. Di fatto manca la materia prima per far funzionare la fusione su larga scala. Certo, si potrebbe produrre trizio bombardando litio 6 con neutroni, ma questo complica ancora di più il processo. C'è poi la questione della radioattività. I neutroni liberati dalla fusione rendono radioattive le pareti del reattore. E certo, si tratta di scorie molto meno pericolose di quelle della fissione nucleare, ma è falso dire che la fusione sia una tecnologia totalmente pulita, sempre che ne possa esistere una. Infine, per il confinamento magnetico serve elio liquido, che è già oggi una risorsa scarsa e preziosa. In sintesi, dopo oltre 70 anni di ricerca, è chiaro che la fusione nucleare non ci darà elettricità economica e affidabile nel futuro prossimo. Eppure Eni continua a scommettere su questa tecnologia, con l'amministratore delegato Descalzi, che promette un impianto pilota nel 2025 e una centrale industriale nel 2030, tempistiche che sembrano pura fantascienza, visto lo stato della ricerca. Sembra più una mossa per distrarre l'opinione pubblica e i politici dalla vera urgenza, e cioè abbandonare i fossili e puntare sulle rinnovabili, tecnologie già mature e disponibili. Ancora una volta si promette di cambiare tutto senza cambiare nulla. Un modo astuto per continuare a estrarre e vendere petrolio e gas mentre il pianeta brucia. Il reattore francese a fusione West ha confinato il plasma per la durata record di oltre 22 minuti a 50 milioni di gradi. Quindi hanno fatto un passo avanti utilizzando oltretutto un divertore di tungsteno perché rende meno indispensabile il trizio. Quindi a livello di ricerca scientifica degli avanzamenti ci sono stati. Il fatto che associano a questa ricerca una possibilità produttiva è fuori dal possibile, quantomeno allo stato attuale. Il gioco che stanno facendo è sparare idee come se fossero certezze, un po' come fanno per i reattori nucleari, ipotetici, di nuova generazione. I reattori nucleari avanzati, gli AMR, ossia quelli di quarta generazione, non solo non esistono, ma ci sono dei problemi che attualmente sono più insormontabili rispetto a quelli della fusione addirittura. Invece gli SMR, Small Modular Reactor, nessuno li produce, quindi non c'è neanche una realtà del nucleare alternativo alle vecchie centrali che sia operativa nel mondo. Quindi il fatto che concentrino investimenti, interessi, leggi in questi ambiti sembra proprio una grande operazione di marketing, fermo restando che la ricerca in entrambi i campi possa andare avanti, in quanto ricerca scientifica in campo civile. Ad esempio, la ricerca che sta facendo l'Enea a Brasimone è una ricerca sui metalli liquidi, per esempio reattori di fissione raffreddati al piombo liquido, che sarebbe funzionale ai reattori di quarta generazione. Come ricerca di per sé nulla da eccepire, si tratta di ricerca scientifica che può portare molte altre scoperte che poi vengono utilizzate in altri ambiti civili, come sempre avviene. Anche la ricerca sui materiali radioattivi, naturali e artificiali, e la loro gestione conduce a effetti benefici, ad esempio in ambito medico, ma non solo. Non va confusa la ricerca con le scelte di politica energetica. Il sospetto comunque è che la scienza sia strumentalizzata per tirare fuori risultati che vengono subito sfruttati per mettere in piedi un castello finanziario. E questo serve naturalmente a rimandare delle scelte che si sarebbero dovute fare da tempo. Ad esempio, giorni fa il ministro dell'Ambiente ha detto che sta ripensando all'idea di allestire altri depositi di rifiuti radioattivi storici piuttosto che limitarsi ad uno. A sentire dichiarazioni di questo tipo, sembra proprio che la buttino in caciara. Contemporaneamente creano delle operazioni finanziarie in modo da coinvolgere investitori o comunque da recuperare i pezzi della filiera nucleare italiana, che pure esistono, rimetterli insieme e in qualche modo finanziarli e quindi creare soldi dai soldi. Nulla di nuovo sotto il sole.